Letture di Radio 24. La notte del 28 maggio 2011, quando ha vinto la Champions League, il Barcellona ha dimostrato di essere qualcosa di più di un club calcistico. Scrive Sandro Modeo nel suo libro Il Barça, tutti i segreti della squadra più forte del mondo, che in questi giorni la ISBN manda nelle librerie. Un libro che affronta le origini della squadra di Guardiola e che, per spiegare il fenomeno Barça, spazia anche attraverso altre discipline diverse da quelle sportive, dalla biologia alla musica, come spiega Pino Donghi in un commento pubblicato sul settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Il Barça di Sandro Modeo è un libro totale, come quel calcio totale che dall'Olanda di Rinus Michels e Johan Cruyff arriva al Barcellona di Pep Guardiola e di cui il libro racconta. Modeo lo fa riprendendo la fortunata esperienza del suo precedente, l'alieno Mourinho, riflettendone le caratteristiche nella scrittura, allo stesso tempo mandando tutti all'attacco gli argomenti che contrastano l'idea di una cultura alta e impermeabile ai grandi temi e agli interessi di quella popolare, e tutti in difesa a quelli che affermano la legittimità di provare a parlare del calcio con lo stesso rigore con cui si racconta di una scoperta scientifica o di un'esegesi letteraria e filosofica. Il Barça è un libro totale ed è l'uovo di Colombo. Se vuoi disseminare cultura alta, non è necessario usare un linguaggio per iniziati e scegliere un tema marginale e inattingibile ai più, come, dall'altro lato, parlando di sport e di calcio in particolare, non è obbligatoria la grossolanità, la sottocultura di certi salotti televisivi, la volgarità delle dirette radio degli irriducibili tifosi. Nel libro, il calcio d'inizio corrisponde al fischio finale della notte del 28 maggio 2011, stadio di Wembley. Per la cronaca sportiva, è il giorno in cui il Barcellona batte il Manchester United 3-1 nella finale di Champions League. In realtà è la notte in cui i nostri sensi e il nostro assetto percettivo sono stati messi alla prova. Non succede spesso, non succede solo nel calcio. C'è la sera dei 100 metri di Usain Bolt alle Olimpiadi di Pechino. C'è il Roger Federer omaggiato da David Foster Wallace, che chiama i suoi colpi momenti Federer. Ma quando succede, commenta Modeo citando il William Gibson di Neuromante, si avverte la sensazione definitiva che qualcosa si sia spostato nel cuore delle cose. Imprescindibile un omaggio alla Catalogna, quella che un tempo fu la regione aquitano-cantabrica, terra di preistoriche innovazioni tecnologiche e di straordinari capolavori di pittura rupestre. Arte e scienza. È fin da lì che si ritrova il carattere della modernità catalana, sintesi coerente tra autonomia irriducibile e apertura selettiva, compendio che giustifica le opinioni degli osservatori del Barça, insieme che fonde armonicamente finezza tecnica e organizzazione tattica, talento e disciplina. L'avanguardia culturale e calcistica del Barça, argomenta Modeo, in questa prospettiva è un'applicazione particolare di quella catalana, orgogliosa della propria officina autoctona, la cantera, e consapevole di dover tutto alla propria apertura selettiva, cioè al trapianto di calcio olandese avvenuto all'inizio degli anni 70 col generale Mikkels e con Cruyff come giocatore totale. Per chi è amante di questo calcio, che secondo l'autore potrebbe anche sopravvivere al calcio come sport, essendo un atteggiamento, un'applicazione particolare di uno schema cognitivo, è una festa della quale si ripercorrono tappe e personaggi, dagli Orange che incantano nel 74 al primo Dream Team, quello con Cruyff in panchina che porta a Barcellona la prima Coppa dei Campioni, tornando indietro al 1971-73, quando la coppia Mikkels-Cruyff si sposta dall'Ajax al Barça. E poi ancora nel passato di Vic Buckingham e di Jack Reynolds, maieuta di Mikkels ma anche fortunato compagno di P.G. Woodhouse nel campo manicomio di Tost, dove i nazisti lo trasferiscono nel 1940. C'è posto per l'epopea del brand Liverpool, quello di Bill Shankly, l'allenatore dal credo socialista, etica sociale prima ancora che politica e da estendere persino alla tattica della squadra, e quello del suo erede, Bob Paisley, il vero artefice della grande macchina di calcio totale inglese. C'è il vallone Goethals e il fiammingo Gittis, responsabili dei successi del Marsiglia e della nazionale belga. C'è il viennese Appel, che guiderà gli olandesi, ancora loro, nella sfortunata seconda finale mondiale del 78, quella persa con l'Argentina nello stadio di Buenos Aires, presidiato dai militari della giunta. Conosciamo l'inventore del pressing, il russo Viktor Maslov, per 7 anni alla Dinamo Kiev, precedendo il più famoso colonnello Lobanovsky. Il Milan di Sacchi riceve un doveroso omaggio, ricordando come il tratto polifonico di quella squadra non può non rimandare a un tecnico che condivide il paese di nascita, Fusignano, con Arcangelo Corelli, genio della polifonia strumentale. Quindi si torna al Barça di Van Gaal e di quel Frank Rijkaard che nel 2006 riporta a Barcellona la Coppa dei Campioni e nell'estate del 2008 lascia a Guardiola un Barça pronto per il salto quantico. Sì, proprio la meccanica quantistica, il processo più controintuitivo della scienza, permette a Modeo di spiegare il gioco del Barça. Un continuum composto di parti discrete, l'interazione tra i giocatori, l'interferenza quantica, che rende evidente la vera sostanza della squadra, giacché, nei Blaugrana, la generalità del sistema non nega, anzi esalta, la specificità dei singoli, e giocare contro di loro è come trovarsi in un universo in cui, di ogni giocatore, sia possibile valutare solo la posizione o la velocità. Per capire davvero l'incidenza prospettica del calcio totale, Modeo ricorre ai batteri e alla loro plasticità adattiva e riesce, per questa via, a raccontare della differenza tra modello lamarckiano, istruzionista, e darwiniano, selezionista. Il primo modello, o schema, agisce soprattutto in relazione all'avversario. Il secondo, invece, imposta uno schema o uno stile a prescindere dall'avversario. Un calcio selezionista che anticipa e propone invece di aspettare e rispondere. Ma non c'è solo scienza. Modeo si muove a zona, con riferimenti a Gaudí, all'Angelus Novus di Benjamin. E se l'Ajax e l'Olanda del 74 ricordano l'effrazione dei Pink Floyd, il fluire lisergico di Amma Gamma o di Medl, vedere giocare il Barcellona di Guardiola è come sentire Key Day e Amnesiac dei Radiohead. Si chiude con Calvino e le sue lezioni americane, e tra queste la molteplicità, il connotato riassuntivo del calcio totale, il concetto che meglio condensa il carattere polifonico, stratificato, insieme preciso e aperto, giacché la regola non soffoca la libertà, del total Voetball. In una parola persona, Leo Messi, il genio intuitivo che si integra e si esalta nella controintuitività rigorosa e organizzata del sistema. Si tratta di una lettura entusiasmante ma non semplice, così la introduce Paolo Condò, riferendosi alla metafora fascinosa quanto complessa del calcio quantistico. Ma c'è anche il caso di qualche fisico, invece, che potrebbe trovare non così ovvi molti riferimenti agli schemi del calcio. Dopodiché anche lui converrà che il calcio buono, e quello raccontato da Modeo è buonissimo, rende migliore la vita. Avete ascoltato la lettura di un articolo di una recensione di Pino Donghi al libro di Sandro Modeo, Il Barça, tutti i segreti della squadra più forte del mondo, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Secondo una recente indagine, il 70% degli abitanti del pianeta sarebbe sottoposto a limitazioni della propria libertà di religione. La più perseguitata è quella cristiana, 12.692 fedeli messi a morte solo nel XX secolo. Ma anche altre religioni vengono colpite, come rivela l'ultimo rapporto sulla libertà religiosa nel mondo, realizzato dall'Opera Internazionale ACS, Aiuto alla Chiesa che Soffre. Partendo dai risultati di questo rapporto, il libro Perché mi perseguiti? Analizza le varie limitazioni al diritto di libertà religiosa e di pensiero in diversi paesi di Asia e Africa. La ricerca è completata dal ricordo dei vari martiri che, in nome della propria fede, sono stati incarcerati, torturati o uccisi. Ecco le parole con cui il cardinale François Xavier Nguyen Van Thuan racconta la sua esperienza nel carcere di Saigon, in Vietnam. A Saigon, quando i comunisti hanno conquistato la città, il governo mi ha rinchiuso in carcere senza un processo, senza una spiegazione. Mi hanno tolto i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i giovani, il mio titolo di arcivescovo. Ero solo il signor Van Thuan e non potevo neppure parlare con gli altri prigionieri per non influenzarli. Avevo solo le mie guardie, i miei carcerieri. Le guardie, all'inizio, venivano sostituite ogni 15 giorni. Ma poi, quando hanno visto che cambiavano atteggiamento nei miei confronti dopo un po' che erano a contatto con me, hanno deciso di mettermi delle guardie fisse. Speravano così che non le influenzassi tutte. Non capivano perché li amassi. Ma io li amavo, perché in loro vedevo Gesù. Molte volte mi chiedevano come facessi a essere così benevolo nei loro confronti, e io rispondevo: vi amo perché Gesù vi ama. Amare, riconciliare, perdonare. Sono queste le tre parole che possono costruire la pace. In prigione ho vissuto momenti tremendi. Da solo per giorni, mesi, anni. Solo, in una stanza senza finestre, senza nessun contatto con l'esterno, mangiando un po' di riso con verdure e sale, talvolta costretto con la luce accesa in cella per 10 giorni e poi al buio completo per altri 10. Spesso mi chiedevo se era vero quello che stavo vivendo. Mi ha aiutato a imitare Cristo. Ho deciso di amare e perdonare i miei carcerieri come Gesù mi ama e mi perdona. Ne è nata una storia di fatti, piccoli e grandi, che cambiano la vita e il cuore. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro Perché mi perseguiti? Libertà religiosa negata, luoghi e oppressioni, testimoni e vittime. A cura dell'opera di diritto pontificio Aiuto alla Chiesa che soffre. Lindau Editore, 176 pagine, 10 euro.